Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Al via con lo scritto d'italiano gli esami di maturità per oltre 9.000 studenti del Friuli Venezia Giulia, Ungaretti e Pirandello tra le tracce che anche quest'anno sono state rese note per via telematica. Passano le riforme, ma le emozioni degli studenti prima della prova rimangono le stesse dei coetanei degli anni passati. Tengono i volumi totali nei primi 5 mesi dell'anno nel porto di Trieste. Malgrado la crisi congiunturale, lo scalo cresce sui volumi complessivi con oltre 24 milioni di tonnellate di merce movimentata rispetto al periodo gennaio-maggio dell'anno scorso. Si finge malato e grazie a falsi certificati medici lavora 9 giorni in 3 anni percependo oltre 40.000 euro. Denunciati un dipendente scolastico ATA di 40 anni e 5 medici compiacenti. In 3 anni aveva lavorato in 3 istituti diversi. Le aziende sanitarie della regione aderiscono alla prima edizione dell'Open Day dedicato alla prevenzione al femminile in programma oggi che coinvolge gli ospedali Bollino Rosa, cioè strutture che dedicano una particolare attenzione ai percorsi clinico-assistenziali delle donne. Mai così tante mucillagini presenti nel Golfo di Trieste dal 2007, a dirlo è l'OGS, a conclusione dei monitoraggi realizzati sulle acque marine vicine alla costa. In Negramaro accendono lo stadio Friuli, la popolare band salentina emoziona il pubblico accorso a Udine per l'unica data nel nord-est del tour negli stadi, da sud a nord. Reso noto alla Casa del Cinema di Trieste il programma di Shorts, il festival cinematografico internazionale che si terrà dal 28 giugno al 6 di luglio. Le 12:32 minuti in questo istante, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Beyerz e Anna Vitaliani che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 19 giugno. Quasi 10.000 studenti del Friuli Venezia Giulia hanno dunque affrontato questa mattina la prima prova scritta dell'esame di maturità, l'esame di Stato, il tema di italiano, cioè. Ungaretti e Pirandello tra le tracce che anche quest'anno sono state rese note contemporaneamente in tutta Italia per via telematica. Siamo andati davanti ad alcune scuole di Trieste per sentire l'atmosfera che si respirava tra i maturandi in procinto di affrontare la grande prova. Io sarei pronto più su Ungaretti o Verga. Spero Ungaretti, che è un po' studiato, Pirandello. Ti senti preparato? No. Erano i favoriti del Totonomi della vigilia e sono usciti Ungaretti e Pirandello, ma nelle tracce della maturità di quest'anno c'è anche il patrimonio culturale, la riscoperta del silenzio, il diario, l'imperfezione e l'atomica. I ragazzi in qualche modo ci sono andati vicino. Una delle tipologie sarà sicuramente la guerra. Sceglierò un'altra. All'Istituto Tecnico Volta di Trieste i maturandi arrivano alla spicciolata per poi ritrovarsi in gruppi e stemperare la tensione. Siete agitati? In piena. Sono un po' agitata. Per italiano sono abbastanza tranquillo, forse la seconda prova potrebbe essere quella un po' più preoccupante. Ma no, io sono pronto un po' per tutto, poi speriamo bene. Al Carducci Dante, che raggruppa diversi indirizzi, in tanti aspettano davanti all'ingresso e le previsioni sono le stesse. Pirandello. Ti, dato la situazione attuale, crediamo in Ungaretti. Avete dormito stanotte o...? Non tanto, sinceramente. Proprio no. Ci preoccupa di più la prova di domani, economia e diritto. Zero tensione, solo testa oggi. Questa non è una maturità come tutte le altre. Seduti sui banchi, davanti al foglio bianco, c'è la generazione Covid. La pandemia li ha sorpresi al primo anno, li ha accompagnati in quelli successivi, con tutto ciò che ne consegue. Inizialmente ci ha molto slegati come classe, ma allo stesso tempo come problema da affrontare ci ha allo stesso tempo uniti. Un'esperienza alla fine quasi positiva, potremmo dire. E c'è chi ci scherza su. Proprio per questo motivo che siamo in quinta, diciamo che abbiamo una preparazione da seconda superiore. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La giunta per le nomine del Consiglio regionale ha espresso all'unanimità parere favorevole sul nominativo di Marco Monaco per ricoprire la carica di presidente del Consiglio d'amministrazione di Autostrade Alto Adriatico, proposto dalla giunta regionale in seguito alle dimissioni rassegnate da Gabriele Fava lo scorso gennaio. Parliamo ora del porto di Trieste. Tengono i volumi totali nei primi 5 mesi dell'anno. Malgrado la crisi congiunturale, lo scalo giuliano cresce del più 5,56% sui volumi complessivi, con oltre 24 milioni di tonnellate di merce movimentata rispetto al periodo gennaio-maggio dell'anno scorso. Lo sprint trova il motore nelle rinfuse liquide con il più 11,61% che trainano la crescita con 16.625.750 tonnellate, il 69,25% del totale movimentato nello scalo triestino, nonostante diversi traffici scontino gli effetti dell'emergenza geopolitica internazionale. Guardando più nel dettaglio gli altri singoli settori, è lieve il calo delle merci varie, meno 3,39%, mentre il comparto RoRo si attesta su 124.091 unità transitate, con il meno 1,69%. Molto negativo l'andamento delle rinfuse solide con 56 tonnellate, meno 78,5%, riconducibile al decremento della sottocategoria cereali a quella dei prodotti metallurgici, contrazione del meno 10,61% nei primi 5 mesi anche per i container. Proprio questo comparto rappresenta un indicatore chiaro del quadro geopolitico attuale e delle sue numerose criticità. Rileviamo infatti che sono state appena 727 le navi container che tra gennaio e maggio hanno scelto di attraversare il canale di Suez contro le 676 che hanno preferito allungare la rotta e conseguentemente i giorni di transito e passare dal Capo di Buona Speranza. Nella sede di Confindustria Alto Adriatico sono stati illustrati poco fa dal presidente Alessio Lilli i dati del bilancio 2023 di Siot Tal. All'incontro è intervenuto anche Vittorio Alberto Torbianelli, di recente nominato commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale. È il quadro geopolitico attuale ad influenzare i volumi del traffico nel porto di Trieste, che comunque reggono con una crescita di quasi il 6% con 24 milioni di tonnellate di merce movimentata rispetto al periodo gennaio-maggio dello scorso anno. Lo ha detto il commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Vittorio Alberto Torbianelli. Le rinfuse liquide, più 11%, trainano la crescita. Molto negativo l'andamento delle rinfuse solide, meno 78%, riconducibile al decremento della sottocategoria cereali ed a quella dei prodotti metallurgici. E proprio questo comparto rappresenta un indicatore chiaro del quadro geopolitico attuale e delle sue numerose criticità. Sono stati appena 727 le navi container che tra gennaio e maggio hanno scelto di attraversare il canale di Suez contro le 676 che hanno preferito allungare la rotta e conseguentemente i giorni di transito e passare dal Capo di Buona Speranza. E alla luce di questi dati che va inquadrato anche l'andamento del porto di Trieste e di molti scali mediterranei. Per il commissario Torbianelli la crisi non permette ancora di interpretare tendenze e maggio nel settore contenitori ha regalato almeno un segnale di fiducia, ma certo se la rotta alternativa del Capo di Buona Speranza, scelta da molti armatori da transitoria, diventasse strutturale, ha detto il commissario, per un prolungamento eccessivo della crisi Trieste ne soffrirebbe pesantemente. Intanto l'assemblea dei soci di SIOT, società italiana per l'oleodotto transalpino, ha approvato il bilancio 2023 con un risultato positivo di 3 milioni di euro, quasi 37 milioni di tonnellate di greggio sbarcati al terminale marino, con l'operazione Tal Plus che permetterà di aumentare la capacità di portata della pipeline per il fabbisogno di greggio dal porto di Trieste in altri paesi europei come la Repubblica Ceca. Silvano Barone, TGR Friuli Venezia Giulia. Grave incidente stradale questa mattina a San Giovanni a Nazisone. Un 59enne alla guida di uno scooter ha investito un capriolo che aveva improvvisamente invaso la carreggiata. Sul posto un'ambulanza e l'equipaggio dell'elicottero. I sanitari hanno stabilizzato l'uomo che è stato ritrasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha subito politraumi ma non è in pericolo di vita. I rilievi dell'incidente sono stati svolti dai carabinieri della compagnia di Palmanova. Si finge malato e grazie a falsi certificati medici lavora 9 giorni. In 3 anni percependo oltre 40.000 euro, denunciati un dipendente scolastico ATA di 40 anni e 5 medici compiacenti. È stata la Guardia di Finanza di Pordenone a condurre l'indagine e a scoprire la frode dell'uomo che in 3 anni aveva lavorato in 3 istituti diversi. Il suo modus operandi era sempre lo stesso. Dopo aver risposto alla chiamata dell'istituto scolastico come ATA, si presentava in segreteria, firmava il contratto di lavoro e dopo 3 giorni di servizio ritornava al paese d'origine, nella provincia di Reggio Calabria, per svolgere un'altra attività lavorativa, inviando falsi certificati medici emessi da professionisti compiacenti. Niente visite fiscali per lui, i certificati gli permettevano anche di percepire il 100% della retribuzione, continuando ad accumulare punteggio per l'avanzamento in graduatoria. Una perquisizione nella sua abitazione, disposta dalla Procura della Repubblica del Friuli Occidentale, ha permesso di rinvenire e sequestrare, oltre ad una corposa documentazione comprovante il doppio lavoro svolto, anche 300.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività esercitata. Mai così tante mucillagini presenti nel Golfo di Trieste dal 2007, a riferirlo è l'OGS a conclusione dei monitoraggi che sono stati realizzati sulle acque marine vicine alla costa. I primi avvistamenti già all'inizio di giugno in Istria, una settimana fa nel Golfo di Trieste, un fenomeno, quello delle mucillagini, che non si verificava con queste proporzioni da più di 15 anni. Si tratta di una sostanza organica aggregante, non alghe o fioriture, ma composti di origine naturale, principalmente polisaccaridi, che non presenta tossicità. Un ruolo importante viene giocato dalle condizioni meteorologiche. Michele Giani, ricercatore dell'OGS di Trieste. Le condizioni sicuramente favoriscono un'aggregazione, sono ovviamente la presenza di marcati gradienti, sia di salinità, cioè quindi gli apporti di acque dolci, che hanno interessato tutto il bacino nord adriatico e quindi hanno creato un gradiente, diciamo, di salinità che favorisce l'aggregazione di queste sostanze gelatinose, che sono diciamo delle sostanze naturali che sono prodotte all'interno degli organismi fitoplanctonici e non solo, anche da altri microrganismi. La causa scatenante, qual è proprio l'organismo imputato, è ancora oggetto di ricerca scientifica. Oggi ci sono anche delle possibilità di indagini genomiche che possono facilitare l'individuazione degli organismi che si possono ritenere maggiormente responsabili della formazione almeno iniziale degli aggregati. È certo che la difficoltà è quello di campionare nel modo corretto e nei momenti giusti, all'inizio quindi della formazione del fenomeno, questi aggregati. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12.42, diamo uno sguardo al tempo, cielo sereno sulla nostra regione, le temperature registrate alle ore 11, Trieste 26 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi e mezzo, Pordenone, Gorizia e Udine 27 gradi e mezzo, Tarvisio 26 gradi, Tolmezzo 25, Forni di Sopra 23 gradi, Sappada e Piancavallo 20 gradi e mezzo, Monte Lussari 17 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 17 gradi, Lignano e Grado 27 gradi, temperatura del mare in entrambe le località 25 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA. Oggi pomeriggio cielo sereno, caldo afoso in pianura di pomeriggio, venti di brezza, zero termico, oltre 4.500 metri, temperature eccezionalmente alte, oltre 2.000 metri di quota. Per domani su pianure costa cielo velato con caldo afoso in pianura di pomeriggio, sui monti cielo poco nuvoloso variabile con temperature ancora eccezionalmente alte, oltre i 2.000 metri di quota. Il Centro Balducci di Zugliano ha ospitato il convegno Oltre la guerra, giù le mani dai bambini, in cui si è parlato della drammatica situazione di migliaia di ragazzi portati via dall'Ucraina e trasferiti in Russia tra orfanotrofi e famiglie. Russificazione è la prassi cui sono sottoposti migliaia di ragazzi ucraini che il Cremlino ha portato via dalla loro terra e disperso a migliaia di chilometri tra orfanotrofi e famiglie della grande Russia, prassi che ha fatto emettere un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale anche nei confronti di Putin per l'accusa di deportazione illegale di bambini. Di questo dramma, che non ha ancora cifre ufficiali, si parla tra i 20 e i 100.000, si è parlato ieri sera al Centro Balducci di Zugliano nel convegno Oltre la guerra, giù le mani dai bambini, coordinato da Giovanni Abriola, attivista e collaboratore di associazioni umanitarie. Introdotti dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, si sono succeduti interventi in collegamento con l'ambasciata ucraina presso la Santa Sede di Roma, dal Ministero Politica Umanitaria di Kiev e sempre dalla capitale ucraina di Padre Pavlo, che si occupa di questi temi. In sala lo scrittore Mario Corti, giornalista per anni in Russia, che ha analizzato i fatti da un punto di vista storico, mentre Eugenia Benigni, esperta internazionale, ha parlato di diritti umani violati. Altra testimonianza, quella dell'arciprete ortodosso di Udine, Volodomir Melinchuk. Toccante poi la partecipazione di 6 bambini ucraini che hanno recitato una poesia di Gianni Rodari, che, lasciando loro un promemoria sulle cose da fare e non fare, raccomanda: ci sono cose da non fare mai. Né di giorno, né di notte, né per mare, né per Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Le aziende sanitarie della regione aderiscono alla prima edizione dell'Open Day dedicato alla prevenzione al femminile in programma oggi, che coinvolge l'ospedale Bollino Rosa, cioè strutture che dedicano una particolare attenzione ai percorsi clinico-assistenziali delle donne. Oltre alle visite gratuite negli ambulatori delle diverse strutture sanitarie ci sono anche tante iniziative. L'importanza di questa giornata ce la spiega Monica Della Martina, ginecologa di ASUFC all'ospedale di Udine. Il focus di questa giornata è dare rilevanza a come i cambiamenti ormonali che avvengono nel corso della vita della donna, dalla pubertà alla menopausa, alla postmenopausa, incidono sulla vita della donna come qualità di vita, ma non solo. Attuando una prevenzione già in età precoce possiamo evitare delle malattie di genere, quale la malattia cardiovascolare, l'osteoporosi, l'Alzheimer, che insorgono in età più matura. Esiste sempre di più una medicina di genere, cioè più concentrata sulla donna e sull'uomo. Siamo diversi? Sì, siamo diversi. Gli estrogeni ci fanno diversi e questa diversità ci fa un po' come scudo per alcune malattie che colpiscono maggiormente l'uomo al di sotto dei 50 anni, prima fra tutti la malattia cardiovascolare. Questo scudo poi viene perso dopo la postmenopausa, ma si può comunque mantenere grazie a una prevenzione iniziata prima e anche a delle terapie adeguate e a uno stile di vita adeguato. Tra le tante iniziative, quella proposta a Cividale del Friuli con una conferenza sulla prevenzione dei tumori femminili aperta a tutti. Questa è una conferenza aperta a tutti, facciamo un po' il focus sui principali tumori femminili, primo fra tutto il tumore al seno e i tumori ginecologici, dando un po' delle indicazioni su quella che può essere la prevenzione delle lesioni più precoci, quindi una diagnosi precoce, ma anche una prevenzione primaria che è possibile oggi per il cancro della cervice grazie alla campagna vaccinale. Ricordiamo l'orario alle 18 presso la scuola media Piccoli. Sarà inaugurato il prossimo anno per la Capitale Europea della Cultura 2025, ma lo si potrà percorrere già quest'estate. L'iter goriziense, un trekking transfrontaliero del progetto europeo Walk to Spirit. Ci spiega cos'è il responsabile Andrea Bellavite in questo servizio. Si tratta di anzitutto un cammino, un percorso a piedi o in bicicletta dalla Basilica di Aquileia fino al santuario di Svetagora, Montesanto, sopra Nova Gorizia e Gorizia. Si chiama Walk to Spirit proprio perché indica un cammino che permette di entrare dentro una dimensione non solo culturale, ma anche profondamente spirituale. Lo descrive così Andrea Bellavite, teologo, scrittore e direttore della Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, l'iter goriziense, il cammino transfrontaliero di 4 giorni per 80 chilometri complessivi tra storia, arte, natura e fede del territorio friul-giuliano, un progetto da 200.000 euro di fondi comunitari nato nel solco della Capitale Europea della Cultura. Ancora Andrea Bellavite. Noi proponiamo 4 tappe fondamentalmente. La prima andrebbe da Aquileia, passando per San Canzian di Sonzo, a Sagrado, una tappa di pianura vicino alla bellissima realtà del fiume Isonzo. Poi la seconda è da Sagrado, si attraversa tutto il Carso, si passa in Slovenia, si vede Zerje e si arriva a Mirenski Grad. Il terzo percorso va da Mirenski Grad a Gorizia e poi dopo a Nova Gorizia. L'ultimo è il cammino che porta, passando per i ponti di Salcano, fino alla cima di Montesanto, Svetagora. Quando sarà percorribile il tragitto? Lo tracceremo in questi giorni, da domani a domenica. Facciamo con un gruppo di organizzatori un percorso per verificare un po' tutti i sentieri, metteremo dei segnali, soprattutto nei luoghi in cui è più difficile individuare la strada, dopodiché noi ci auguriamo che già quest'estate siano tanti coloro che si mettono in cammino e vengono a visitare tutti questi bellissimi posti per arrivare a Svetagora, dove tra l'altro oggi verrà inaugurato il centro di accoglienza per i pellegrini, per i giovani in modo particolare, che è stato realizzato anch'esso all'interno di questo progetto Walk to Spirit. Lorenzo Guerrinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Al via la 16ª edizione del progetto Socializzazione Anziani, che permette di offrire agli ospiti delle case di riposo di Trieste un ricco calendario di spettacoli teatrali, concerti, la distribuzione giornaliera del quotidiano locale. Il progetto è stato presentato questa mattina, ideato e realizzato interamente dalla Fondazione CR Trieste, fin dalla sua nascita nel 2008. Al telefono abbiamo raggiunto il vicepresidente della Fondazione CR Trieste, Francesco Prioglio, che ci racconta cosa viene offerto agli ospiti delle case di riposo. Nell'arco di questi mesi, diciamo da aprile di quest'anno sino a febbraio del prossimo anno, per la 16ª volta ci sarà un ciclo di circa 100 spettacoli teatrali nelle residenze per anziani di Trieste, 10 concerti, 5 a cura della Glasmen Amatissa e 5 a cura dei Tartini. Questi porteranno circa 200 persone di diverse età, per lo più giovani, attori, musicisti, tecnici, accompagnatori, dentro le residenze per anziani, perché possa essere non solo un'occasione di bellezza, un'occasione di ricordo, di memoria, di divertimento, di allegria, ma anche di incontro tra generazioni. Come ha visto cambiare anche gli ospiti delle strutture di fronte a questi eventi in tanti anni che state facendo questo progetto? Noi abbiamo continui apprezzamenti, l'occasione per cui ci si ricorda del fatto che una persona è fatto di incontro, è fatto di reciprocità, è fatto del ho bisogno di te, è fatto del anch'io giovane nell'incontrare te, che sei in questo momento fragile, mi dai molto. Ecco. Cambiano loro, ma cambiamo anche noi. Inaugurato questa mattina a Udine presso il Giardinetto Salgari, un campo da gioco di basket inclusivo. Presente alla cerimonia l'associazione Zio Pino, reduce dalla conquista del titolo nazionale. Si tratta del secondo campetto di questo tipo in regione, uno dei pochi in Italia. C'era anche una rappresentanza dei campioni italiani della Zio Pino a inaugurare il primo campo da basket pubblico all'aperto realizzato sul territorio del comune di Udine. Era stata la stessa società udinese a inaugurare pochi anni fa il primo campo di questo tipo in Italia, a Tavagnacco, riqualificata l'area sportiva di Via del Buon, Giardinetto Salgari, nella parte est della città. Colori accesi, i due canestri laterali più bassi per permettere il tiro a giocatori con qualsiasi tipo di disabilità, fisico o mentale, per uno sport in cui si gioca tutti assieme, in squadre composte, sia dei ragazzi che delle ragazze. I canestri si possono ruotare di 180 gradi per consentire anche le partite di basket. Presente l'amministrazione comunale che fra poche settimane dovrebbe inaugurarne un altro, uguale al Parco Ambrosoli. Il progetto, con un investimento totale di 80.000 euro, di cui 40.000 finanziati dalla Regione, premi fondi ottenuti dalla precedente amministrazione, ha trasformato l'area attrezzata esistente in uno spazio inclusivo. Rimossi i vecchi impianti, è stata rifatta la superficie in asfalto, applicato un nuovo rivestimento in resina per garantire una superficie di gioco adatta. Panchine e tavoli in plastica riciclata sono disegnati di modo da consentirne l'uso anche a persone sulla carrozzina. La pavimentazione del vialetto di accesso è stata ampliata e migliorata, garantendo una viabilità agevole e priva di barriere architettoniche. Di campi di questo genere ne stanno nascendo qua e là in regione. Il vero scudetto per noi non è stato tanto quello vinto a Lucca a inizio mese, quanto il primo vero campetto all'aperto, ha dichiarato Alberto Andriolo, presidente della Zio Pino. Il nostro è uno sport a tutti gli effetti, ma ha connotazioni sociali troppo importanti per essere in secondo piano. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. La musica ora, effetti spettacolari con maxi schermi ed effetti speciali per il primo concerto allo stadio di Udine, che ha inaugurato la stagione dopo 12 anni di stop, con una band amatissima in Negro Amaro ieri sera. Oltre 8.000 gli spettatori, molti provenienti da fuori regione. Una danza di lune volanti sopra il pubblico, pubblico che si accende con luna piena, la nuovissima canzone che ha dato il via al concerto dei Negro Amaro, che ha inaugurato l'estate dei grandi eventi a Udine con uno show coloratissimo, ricco di effetti speciali, spettacolare. Le mani al cielo! La band salentina celebra i suoi 20 anni di attività e sceglie Udine come unico palco del nord-est del loro tour da nord a sud, riaccendendo di fatto i riflettori della grande musica allo stadio a 12 anni di distanza dagli ultimi concerti. Oltre 2 ore e mezza di live nei quali non sono mancate le hit storiche, ma anche gli ultimi pezzi, ad impreziosire lo spettacolo anche 2 emozionanti omaggi che la band ha dedicato a 2 grandi della musica prematuramente scomparsi, Lucio Dalla, cui Giuliano Sangiorgi ha dedicato una bellissima versione di canzone e il momento in ricordo alla compianta Dolores O'Riordan dei Cranberries nella struggente Senza fiato. Suggestivo il palco enorme con due megaschermi laterali al centro, una testa con la visiera per la realtà aumentata e una lunga passerella per arrivare vicino ai fan. 8.000 gli spettatori, oltre 15.000 invece quelli attesi per il prossimo concerto per il bluesman che il mondo ci invidia. Zucchero domenica 23 giugno porterà a Udine il suo Overdose d'amore World Tour. Reso noto alla Casa del Cinema di Trieste il programma di Shorts, il festival cinematografico internazionale che si terrà dal 28 giugno al 6 luglio. 9 giorni di programmazione, 117 opere, l'immersione totale nel cinema breve sta per cominciare. Dal 28 giugno ritorna Shorts International Film Festival, la manifestazione cinematografica alla sua 25esima edizione, diretta da Maurizio Di Rienzo. Il pubblico del festival potrà assistere ai cortometraggi presso il Giardino Pubblico, il Teatro Miela e la Sala Xenia. 7 le sezioni di concorso, la storica Mare Metraggio con 45 corti da 43 paesi. Shorts Express con 23 opere della durata massima di 5 minuti, tematica ambientale per Eco Shorts, mentre tutta nazionale la produzione di Italia in Shorts. 11 corti a testa in concorso, 20 invece i lavori nella rassegna dedicata ai più giovani con selezionatori e giurati tra gli 8 e i 15 anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Trieste e Gorizia. 7 le storie di Shorts Immersive per un futuro tecnologico e narrativo da esplorare con specifici visori personalizzati e infine 3 i cortometraggi evento fuori concorso. Ancora numeri con la Shorts Comics Marathon, staffetta di tavole legate al cinema che coinvolge una settantina aspiranti fumettisti disegnatori della settima arte. E sarà la Turchia, con 5 opere, la protagonista del focus sul cinema breve. Premi e masterclass permetteranno di far conoscere meglio al pubblico Simone Massi, Damiano e Fabio D'Innocenzo, Carlotta Gamba, Isabella Aragonese e Michele Riondino. Anche in questa edizione il festival sarà visibile online grazie alla collaborazione con la piattaforma My Movies One. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con la nostra programmazione radiofonica. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.